Vogliamo cominciare con una foto. Vediamo se vi ricorda qualcosa questa prima foto. Ti vuoi mettere con me? Sì, no. La risposta di questa bambina, credo, è stato un no con l'aggiunta in rosso, sei brutto. Quanti hanno un ricordo a riguardo? Qualcuno ha avuto... Chi è che ha fatto una dichiarazione d'amore simile, proprio su carta? Ma è patetico, io non credevo che fossimo così tanti. Quanti l'hanno ricevuta? Quanti hanno sbarrato no? Ah, bene, bene, bene. I tempi sono cambiati e a quanto pare non si usa più la carta, ma si usano i muri. Infatti vorrei vedere le prossime immagini con voi. Ora si scrivono sui muri cose come: Chiara, sei troppo buona, ti vuoi mettere con me? Oppure frasi come: prova ad amarmi, con qualche problema di grammatica. Se tu non ci fossi, la mia vita non esistesse. Oppure, sei la cosa più bella che abbia mai esistito, ti amo. Gianvito. Gianvito, tu l'hai scritta quella frase? Gianvito, io vedo una somiglianza tra te, quel muro, quella scritta. Ah, Nicola l'ha scritta e l'ha firmata col tuo nome. Vediamo la prossima slide. Pensarti non è bello come averti, ma manchi. E poi ancora, ho sbagliato, sì, ma baby, dammi un'altra chance. Ora voi ridete, no? Però io mi chiedo quanti di voi sanno l'esatto spelling della parola chance, no? No? Perché qua si ride, si scherza, però secondo me non lo sapete neanche voi, c'è qualche persona onesta. Claudio, secondo te come si scrive chance? Te lo dico anche in inglese. C-H-A-N-C-E. Sono impressionato, ragazzi, questo è il gruppo di Mottola. Chi l'avrebbe mai detto che da Mottola ci fosse tanta conoscenza dell'inglese? E poi ancora, che poi in realtà è una parola francese. Mi hai preso il cuore. E qualcuno ha aggiunto sotto anche il libro di grammatica. Fantastico. Quanti sanno che la parola di Dio, la Bibbia, chi è che c'ha una Bibbia? La parola di Dio, la Bibbia, è una lettera d'amore, è un libro d'amore. C'è qualcuno che c'ha una Bibbia? Nessuno c'ha una Bibbia cartacea. Ho sbagliato posto forse. Guarda Nico, guarda come sei vintage. Grazie Nico. La Sacra Bibbia, quanti sanno che questo libro, ben sottolineato, evidenziato da Nico, è una lettera d'amore? È un insieme di parole messe insieme dal nostro Creatore, colui che ci ha creati e ci ha creati per avere una relazione con noi, perché ci ama, e tutto della sua parola ci parla d'amore. Potrei partire dall'ultimo libro della Bibbia, dove c'è Gesù che dice: io sono alla porta e busso, io sono alla porta e busso e voglio entrare. Questo è il desiderio di Gesù, dice: io sono alla porta del vostro cuore, io vi amo talmente tanto che sono lì che busso e voglio entrare, e a chi mi fa entrare io dimorerò in lui e cenerò con lui e starò con lui, perché voglio una relazione con ciascuno di noi. Poi se andiamo avanti troviamo parole come quelle di Gesù stesso, che dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, oppressi, io vi darò riposo perché vi amo. Oppure Gesù stesso in Giovanni 10:10 che dice: io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Queste sono parole di una persona che è follemente amata. Oppure possiamo leggere, andando nel Vecchio Testamento, frasi come quelle che abbiamo trovato in internet, su Facebook, in questi giorni, proprio per sponsorizzare e pubblicizzare questo evento. Geremia 31,3 che dice: io ti amo. È Dio che dice questo. Io ti amo di un amore eterno, come nessun altro può amare. Oppure Isaia 43, dove vedete un po' Dio come si esprime nei nostri confronti, dice: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Questa è la parola di Dio. E potrei andare avanti per ore. C'è addirittura un intero libro della Bibbia, il Cantico dei Canti, che è un inno a questo amore. E diventa talmente intimo, talmente profondo, che a volte è scandaloso leggerlo. Però parla dell'amore che Dio ha nei nostri confronti. Parla dell'amore di Cristo nei confronti della Chiesa. Parla dell'amore nel quale Dio vuole che noi siamo vincolati. E quindi noi siamo qui questa sera, cominciando con True Love, a toccare un tema che è quello dell'amore, anche perché è il weekend dove tutti celebrano l'amore. Però quello che noi vogliamo scoprire questa sera, e spero che non è solo il mio intento ma anche il vostro, è che cos'è il vero amore, da dove viene il vero amore, chi dà il vero amore. E noi sappiamo che la risposta è Dio, è scontata, però io vorrei che questa sera noi uscissimo da questa sala con una mente rinnovata e un cuore rinnovato della consapevolezza profonda che il nostro Dio ci ama, e ci ama profondamente. True love, infatti, esiste per ricordarti che Dio ti ama. True love non esiste per ricordarti come tu devi amare Dio, perché questo può essere il fraintendimento che noi abbiamo in un weekend di questo tipo, no? Noi veniamo qui per capire tutti insieme, in tema di sesso, in tema di amore, in tema di relazioni, come noi possiamo essere dei cristiani un po' più per benino, come possiamo amarlo meglio e come lui può essere gratificato dalla nostra ottima condotta di credenti. Non è questa la ragione per la quale noi facciamo questo weekend, perché non c'è niente che noi possiamo dare a Dio che non abbiamo prima ricevuto da lui. E il vero amore sta proprio in questo. Sapete, la parola di Dio, Dio dice a un certo punto: ve lo dico io che cos'è il vero amore. E quando tu vai al... C'è una porzione di questa parola scritta da un discepolo di Gesù che ha particolarmente compreso e apprezzato l'amore di Gesù nei suoi confronti, che è stato la penna, è stata la mano che ha messo su carta parole di Dio. È la definizione di Dio di amore. Vorrei che noi la leggessimo insieme. Stasera ci concentreremo su queste parole. Questa è la definizione per eccellenza di amore. Nessuno può definire l'amore se non l'autore stesso. E Dio è amore e lui definisce che cos'è l'amore. Quindi tu stasera puoi essere venuto con una consapevolezza di che cos'è amore per te. Forse finora hai vissuto tante esperienze d'amore. Forse hai una consapevolezza di quello che è il mondo nel quale che ci circonda e quello che il mondo vive e definisce quale amore. Ma noi stasera vogliamo allinearci con quella che è la parola di Dio e scoprire qual è il vero amore. E proprio 1 Giovanni, capitolo 4, versetto 10, dice questo: l'amore vero è questo, non l'amore che abbiamo avuto verso Dio, che abbiamo avuto verso Dio, ma l'amore che Dio ha avuto per noi, il quale ha mandato Gesù, suo figlio, per farci avere il perdono dei nostri peccati. Non è incredibile che la definizione di amore che la parola di Dio ci dà, che Dio dà a noi, parte da una negazione. Dice: l'amore, volete sapere che cos'è l'amore? Prima di dirvi che cos'è l'amore, vi dico che cosa non è l'amore. L'amore non è qualcosa che parte da te. L'amore non è qualcosa che nasce da te. L'amore è qualcosa che parte da Dio. Questa è una cosa fondamentale, perché noi dobbiamo comprendere che se oggi noi siamo amati da Dio, non è perché noi abbiamo potuto meritare e conquistare questo amore da parte sua, ma noi dobbiamo comprendere questa sera che l'amore di Dio esiste perché lui ama e ha deciso di amarti incondizionatamente. Non c'è niente che tu possa fare per farti amare di più da Dio, e non c'è niente che tu possa fare per farti amare di meno da Dio. Perché Dio ti ama in una maniera incondizionata, profonda, infinita, ed è Lui la fonte di amore. Tu questa sera forse sei venuto in questa sala pensando che sei poco degno di cantare certe canzoni, che questi discorsi che stai ascoltando adesso, questo tipo di messaggio, non ti tocca perché già ti senti in difetto nei confronti di Dio. Sai che sei un ragazzo, sei una ragazza che vive nel peccato. Sai che sei un ragazzo e una ragazza che non si allinea a quello che la parola di Dio dice. Conosci 10 comandamenti, conosci quello che sono molti dei comandi dati da Gesù in persona nella sua parola, e quando pensi a tutto questo ti senti in difetto. E in un qualche modo dentro di te avviene una distorsione. Cominci a pensare che quel Dio di amore in fondo non ti vede con l'amore con cui vede il tuo fratello, la tua sorella, la persona che ti sta a fianco o la persona che sta parlando adesso. La realtà è che Dio ama ciascuno di noi in una maniera incredibile, infinita e incondizionata. Lui ama l'ultimo dei peccatori di questa sala tanto quanto ama il primo dei santi. Perché Lui è il Dio di amore ed è Lui l'autore d'amore e da Lui parte l'amore. Quindi questa sera tu devi decidere di non accettare questa distorsione di visione che viene da parte del diavolo. È il diavolo che è il bugiardo per eccellenza. Gesù stesso dice: lui viene per rubare, ammazzare e distruggere, e lui cercherà di rubarti questa sicurezza. Lui cercherà di distruggere la tua vita perché ti sentirai indegno e lontano da Dio. Lui cercherà di portare rovina, omicidio, e cercherà di seminare dentro di te delle bugie come queste che ti fanno sentire poco degno di Dio, poco in grado di poter vivere una vita trasformata e guidata da Lui. Ma la buona notizia, noi siamo la Chiesa del pieno Vangelo significa pienezza della buona notizia, e noi siamo qui per condividere questa buona notizia con ciascuno di voi, anche per te che sei forse qui per la prima volta. E la notizia è questa: Dio ti ama. E ti ama profondamente, più di quanto io possa esprimere, più di quanto io possa ripetermi, più di quanto io possa illustrarlo, fare metafore o raccontare storie. Gesù ti ama e Lui ti vede, ed è Lui l'autore di questo amore nel quale tu non puoi fare niente. Una cosa solo puoi fare, è riceverlo. Questa è l'unica cosa. L'unica cosa che puoi fare è sbarrare sì, no? Metterci una crocetta sul sì e ricevere tutte le benedizioni che stanno in questo amore. Tutta la grandiosa esperienza di vita che Dio ha in serbo per te. Sai che Dio ha un destino di vita meraviglioso per te? Lui vuole guidare ogni tuo nuovo giorno. Lui vuole fare in modo che tu viva una vita sorprendente. Lui vuole fare in modo che la tua vita non sia ordinaria, ma straordinaria. Lui vuole prenderti così com'è, trasformarti e dare senso alla tua esistenza. E sapete, questa è la mia storia. La mia storia è che ero un ragazzo alla ricerca disperata di un senso nella vita. E ogni cosa che ho cercato, tra le ragazze, tra i divertimenti, nella droga, nella musica, in tutto quello, dovunque io cercavo un senso che potesse appagare le mie giornate. Solo quando una notte, nella mia disperazione, ho urlato a Dio e ho detto: Signore, se ci sei, io ho bisogno di te. Solo in quel momento ho ricevuto il suo amore, la sua grazia e la mia vita è stata trasformata per sempre. La tua vita può essere trasformata per sempre. E io voglio ripetermi e dirti, true love non esiste per dirti quello che devi fare e non devi fare. True love non è qui per dirti quali sono le regole che devi seguire, i comandamenti ai quali ti devi allineare per conquistare l'amore di Dio, per essere approvato da Lui. Con tutti i tuoi peccati, con tutta la tua sporcizia, con tutta la feccia che c'è in te, con tutto ciò che è lurido dentro di te, fuori di te, nelle tue parole, nei tuoi occhi, nei tuoi atti, nel segreto della tua stanzetta, Gesù ti vede e ti dice: io ti amo così come sei, io ti amo perché da me parte l'amore, non parte da te. E la nostra relazione non dipende dal fatto che tu puoi dimostrare di amarmi abbastanza, ma la nostra relazione parte dal fatto che io ti ho scelto, che io ho un piano per te e tu puoi accogliere questo amore che cambierà la tua vita. Ti puoi rilassare. Questo è un messaggio nel quale tu puoi rilassarti. Questo è il messaggio dell'amore di Dio che ti porta a dire: ok, devo solo ricevere. Fammi ricevere. E tu questa sera hai la possibilità di fare questa scelta. Io questa sera voglio farti fare questa scelta. La scelta dove tu dici: finora sono stato derubato, sono stato distrutto e ho vissuto omicidio nel mio cuore. Ho vissuto esperienze che non hanno dato senso alla mia vita, ma se c'è veramente qualcuno che mi ama così tanto da volermi prendere, abbracciare, rinnovare, io voglio ricevere questo amore. Sei tu questa persona stasera? Sei tu questa persona che devi dire forse per la prima volta: Gesù, vieni, se mi ami tanto, fatti vivo, intervieni nella mia vita, rinnovami e dammi un nuovo inizio con te. Se sei tu questa persona, io questa sera voglio pregare per te. Io questa sera voglio darti occasione di ricevere questo amore. Sapete cos'altro ci dice questo verso? Vorrei che fosse riproiettato. È che, come ho detto, anzi lo rileggo, l'amore vero è questo. Non l'amore che abbiamo avuto verso Dio, ma l'amore che Dio ha avuto per noi, il quale ha mandato Gesù, suo figlio, per farci avere il perdono dei nostri peccati. Se dovessimo riassumere questo verso, Dio sta dicendo che l'amore ha un nome, e il nome dell'amore è Gesù Cristo. Gesù è l'amore che si è fatto carne, si è fatto ossa, è venuto su questa terra e ha camminato e ha vissuto quella perfetta vita che né tu né io potremmo mai vivere. Lui ha vissuto quella perfetta vita in comunione e relazione con Dio, in perfetta santità, per poi prendere tutti i nostri peccati, portarli su quella croce e mettere lì ogni nostra condanna. L'amore ha un nome ed è Cristo Gesù. Quello che tu devi smettere di vivere, non mi interessa se tu sei cattolico, evangelico, se ti definisci ateo, protestante o qualsiasi denominazione tu abbia in mente, quello che tu hai bisogno per la salvezza della tua vita e per un rinnovamento e una rigenerazione, un nuovo inizio, è Cristo Gesù. C'è scritto nella parola di Dio che non c'è nessun altro nome mediante il quale noi possiamo ottenere salvezza. E se tu vuoi salvezza, e questo vale per chi ha già fatto il passo e chi ha aperto già il proprio cuore a Cristo Gesù, ma vale anche per noi che ci definiamo credenti, ci definiamo già discepoli di Gesù, ma dimentichiamo che Gesù non è una religione e che non è un rituale da seguire. Anche per noi è valido questo appello, questo invito. Tu hai bisogno del vero amore, e il vero amore è una persona. È un uomo con il quale tu puoi avere relazione, puoi parlare. Sai che Gesù è qui in questo luogo e sta bussando al tuo cuore e ti sta chiedendo: cominciamo a relazionarci, cominciamo a parlare insieme. Quali sono i tuoi problemi? Quali sono le tue necessità? Quali sono i tuoi bisogni? Quali sono le tue sofferenze? Quali sono i tuoi rammarici? Quali sono le cose che che non capisci, parliamone insieme, relazionati a me. Lui è la salvezza. C'è un'altra cosa che noi comprendiamo da questo verso, è che la definizione di amore, come abbiamo detto all'inizio, è una definizione che solo Dio può dare, perché Lui è l'autore dell'amore, essendo Lui stesso amore. L'amore vero è questo, è Dio che dice l'amore vero è questo, il true love è questo. In altri termini Dio sta dicendo tu hai un'idea sbagliata di amore. Se Dio ha dovuto permettere a un suo servo di scrivere queste parole che hanno avuto modo di giungere fino a noi oggi, con questa dichiarazione iniziale che dice l'amore vero è questo, è perché Dio si è preoccupato per noi, si è preoccupato del fatto che noi abbiamo un'idea distorta dell'amore. Noi ci siamo presi il copyright che non ci apparteneva. Io non so se a voi piacciono le imitazioni, a me non tanto piacciono. Ho visto, quando dovevo comprare il mio iPad o il mio iPhone, ho visto in internet e mi sono ritrovato in annunci e proposte di cellulari e di iPhone e di iPad che erano molto molto simili, perfettamente delle copie. Ma noi sappiamo benissimo che le imitazioni non hanno tutte le caratteristiche di ciò che è autentico. C'è un ragazzo cinese che ha voluto e desiderato tanto una Lamborghini, che se l'è autocostruita, non se la poteva permettere. Quindi voglio farvi vedere la foto di questo tentativo mal riuscito di Lamborghini da parte di questi. I cinesi sono proprio degli esperti nelle imitazioni, imitano tutto, copiano tutto. Niente di razzismo qui, nessun commento, anzi. Sono fenomenali, io copro tutto dai cinesi oramai. Comunque questa è la Lamborghini versione cinese, ma vi rendete conto che c'è qualcosa che non va in questa macchina? Vi rendete conto che c'è un motore che manca, mancano delle finestre, mancano quel lusso, manca quel fascino che invece c'è in una Lamborghini autentica che pregherei che fosse proiettata? Siete d'accordo con me che c'è una leggera differenza? Siete d'accordo con me che qualche dettaglio sfugge? Puoi rimettere la foto precedente? Dici che manca solo il fatto che gli sportelli siano chiusi. Rimettiamo quella autentica. Gesù, Dio, sta dicendo questo è l'amore vero. Ogni qualvolta tu cerchi di avere una relazione con una ragazza perché sei insoddisfatto dentro di te, o cerchi una relazione con un ragazzo perché vuoi in quella relazione trovare tutto ciò che c'è di autentico, quando cerchi di divertirti in maniera sfrenata, quando cerchi la gioia nelle cose che ci circondano, non che siano necessariamente sbagliate, ma questo denota il fatto che tu in maniera profonda stai cercando Dio senza neanche saperlo. Lui è la Lamborghini autentica, Lui è l'amore vero. E ogni qualvolta tu cerchi gioia, soddisfazione e completezza per la tua vita, non devi ricorrere a una ricerca frenetica alla quale sei indirizzato dalle persone che ti circondano. Hai la possibilità di seguire quella freccia enorme e lampeggiante che punta verso la croce. È Lui ciò che ti dà abbondanza, è Lui ciò che ti dà completezza, è Lui l'amore vero. Se ti senti incompleto questa sera, non sarà qualcosa a completarti, ma sarà qualcuno a completarti. E questo qualcuno è Gesù Cristo. Io vorrei che ci alzassimo in piedi. Vorrei invitare il gruppo Lode e vorrei che noi vivessimo un tempo nel quale tu questa sera ti metti in discussione davanti a Dio. Io non lo so con quali esperienze di vita sei venuto in questo locale. Io non so cosa stai vivendo nella tua vita. Ma una cosa so, che se Dio ha messo a cuore a me questo tipo di messaggio è perché Dio voleva parlare direttamente a te e dirti con molto amore, con molta gentilezza: smettila di cercare. Smettila di cercare di completarti da te stesso. Smettila di appropriarti di falsi, di imitazioni. Ricevi il vero amore. Ricevi me. Voglio pregare. Gesù, ti ringrazio perché tu sei il vero amore. Io ti ringrazio perché hai cambiato la mia vita. Ti sono immensamente grato, Padre, perché so che non sono l'unico in questa sala che con forza, con gioia, con soddisfazione può dire: tu sei perfetto, Gesù. Tu sei la completezza in persona. Tu sei colui che riempie il cuore e trasforma le vite per sempre. Tu sei la fonte di ogni benessere. Tu sei la vera gioia. Tu sei la vera pace. Tu sei la vera grazia. Nessun altro è come te, Gesù. L'abbiamo cantato, l'abbiamo urlato, però in questo momento te lo vogliamo dire sinceramente. Io voglio pregare per quanti questa sera riconoscono che hanno un cuore rotto e riconoscono che non conoscono il vero amore. Io voglio pregarti per quanti in mezzo a noi vengono da storie difficili. Quanti in mezzo a noi hanno accettato ogni tipo di relazione pur di avere una forma di soddisfazione, una forma di attenzione. Gesù, io voglio pregarti affinché tu questa sera possa guarire. Io prego affinché questa sera tu possa rinnovare e dare un nuovo inizio. Se tu sei quella persona che questa sera con sincerità puoi dire: io non ho mai aperto completamente il mio cuore a colui che sta bussando, cioè a Gesù. Voglio ricordarti quel verso. È un verso in Apocalisse 3, dove Gesù che dice: io sono alla porta e busso. E busso. E lui stasera sta bussando. E poi Gesù aggiunge: a colui che aprirà quella porta, io entrerò. Questa è la promessa di Gesù. Non è una promessa falsa, non è un'illusione, non è qualcosa che non sperimenti con concretezza, è qualcosa di concreto, qualcosa di reale, qualcosa che veramente fa la differenza. È la promessa di Gesù: io entrerò e dimorerò con Lui e cenerò con Lui e starò con Lui. E questa promessa vale per te. Non devi fare niente. Forse la religione ti ha insegnato che devi meritarti l'amore di Gesù. Forse tu ti sei autoconvinto che ci sono scelte che dovresti cambiare prima di poter ricevere questo amore. Forse ti senti come quel figlio prodigo, non so se conosci la storia, che si sta preparando un buon discorso da fare a Dio per convincerlo ad amarlo. Ma Gesù ti vede così come sei, sporco, ancora con la puzza di quei maiali nei quali hai lavorato. E Dio vuole abbracciarti così come sei, questa sera. Non domani, questa sera Lui vuole abbracciarti. Questa sera Lui vuole farti suo. Questa sera Lui vuole farti sua. E tu puoi ricevere questo profondo amore ed essere una nuova persona. Io te lo garantisco, è una promessa che non faccio perché io ho qualcosa da darti, ma perché io per primo l'ho ricevuta. Quindi io vorrei che tutti noi abbassassimo i nostri capi e che chiudessimo anche i nostri occhi. E se questa sera sai che tu sei quella persona, io semplicemente voglio vedere la tua mano. Voglio che tu in questo momento alzi la tua mano affinché io possa pregare per te. C'è qualcuno? C'è qualcuno che dice in maniera coraggiosa, sì, io lo voglio, io voglio ricevere Gesù, grazie. Grazie. C'è qualcun altro? Grazie. Grazie. Ancora qualcuno? C'è qualcun altro che dice, io voglio ricevere questo amore. Io so che ho sbagliato, io sono in colpa, ma capisco che Lui mi ama così come sono. Mentre manteniamo ancora tutti i nostri occhi chiusi e il capo chino. Grazie, ti vedo in prima fila, grazie in seconda. C'è qualcun altro? Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Vedo la tua mano. Sono così tante persone che in questa sala stanno dicendo io voglio questo amore. Io so che Dio è entusiasta di questo. Io so che Dio sta gioendo in questo momento. In momento, sapete che Gesù stesso dice c'è più gioia nei cieli. Cioè, in altri termini, nei cieli si fa festa per una singola persona che viene a ravvedimento, che viene a salvezza, piuttosto che per 99 giusti. Lui ti sta vedendo e Lui ha un occhio particolare per te che non hai aperto ancora il cuore a Lui. Lui ti vuole con tutto se stesso. C'è qualcun altro? Io so che c'è ancora qualcuno che deve aprire il suo cuore, deve essere sincero davanti a Dio. Non stai alzando la mano a me, stai alzando la tua mano a Gesù e stai dicendo a Lui, io ti voglio. C'è qualcuno ancora? Alleluia. Voglio pregare per te. Voglio pregare per te che hai alzato la mano e voglio guidarti in una preghiera, va bene? Voglio chiederti di ripetere con me questa preghiera, anzi lo faremo tutti chiesa per sostenere queste persone che per la prima volta stanno facendo questa preghiera. E vorrei che tu la urlassi a Dio, che non semplicemente in maniera timida la sussurrassi, ma che tu veramente in maniera decisa dicessi queste parole a Gesù. Sono convinto che esprimo una preghiera del tuo cuore. Quindi ripeti con me, Signore Gesù, stasera ti voglio. Voglio che tu entri nel mio cuore. Voglio che tu trasformi la mia vita. Voglio che tu mi dai un nuovo inizio, Gesù. Che tu togli via ogni peccato, ogni sporcizia. E che tu vieni e mi cambi e mi fai tuo, tua. Grazie Gesù. Amen. Amen. Amen. È bello fare questo applauso, però sapete, alla luce di quello che la parola di Dio dice, no? E il fatto che in cielo stanno facendo festa e tutti gli angeli stanno celebrando il fatto che tu hai alzato la tua mano per dire io voglio Gesù, io credo che noi dovremmo fare un applauso più grande, unirci a questa festa che si sta celebrando in cielo. Voglio pregare ancora, voglio pregare per quel gruppo di persone che qui dice io già conosco il Signore, ho vissuto forse diversi anni, sei stato battezzato, hai fatto scelte importanti. Sapete, io sono convinto che il Signore sta scegliendo una nuova generazione di giovani qui a Modugno, qui in Puglia, qui in questa nazione. che decide di non essere dei bigotti religiosi, ma di essere dei rivoluzionari che vogliono seguire Gesù a tutti i costi, vogliono camminare avendo alta la bandiera dell'amore, vogliono vivere in una relazione intima, profonda con Lui, e non vogliono essere influenzati e condizionati dal mondo che ci circonda, ma lo vogliono condizionare. Questi sono gli upside down che il Signore sta chiamando. Queste sono le persone che mettono sotto sopra il mondo che Dio sta scegliendo. Ed è un nuovo anno, una nuova stagione per noi upside down. È un nuovo tempo. E Dio vuole fare cose nuove. E vuole dei cuori radicali. Vuole delle persone che dicono basta, basta la bugia. Basta ai mezzi, alle mezze misure. Basta il compromesso. Basta scegliere di vivere in imitazioni. Basta scegliere di vivere in quello che mi propone il diavolo, che è una falsificazione dell'immagine di quello che invece Dio vede di me. Basta vivere in questa confusione di scelte. E che dice: io radicalmente voglio alzarmi in piedi e rifare quella scelta che ho fatto quando il primo amore era dentro di me. Voglio dare tutto me stesso. Non voglio vivere più nei compromessi. E tutto quello che verrà detto qui a True Love in questo weekend, già lo sappiamo. Per chi è upside down, per chi è credente, già lo sappiamo di cosa parleremo. Ma tu questa sera decidi di cogliere queste parole in anticipo e dire: io mi voglio allineare alla volontà di Dio. E lo voglio fare non perché devo dimostrare qualcosa a Lui, ma perché riconosco che Lui mi ama talmente tanto che vuole il meglio per me, ed è per questo che Lui mi chiede purezza, è per questo che Lui mi chiede santità, è per questo che Lui mi chiede di non vivere più nel compromesso e nelle imitazioni. Io credo che un popolo di giovani senza compromessi si sta per alzare e rivoluzionare questa nazione. Già sta succedendo e lo sento. Ed è importante che noi non lo viviamo solo dentro. È importante che noi lo esterniamo con forza. Ed è per questo che io voglio farmi indietro e voglio invitare tutte le persone che si sentono parte di questo popolo e dicono: io questa sera voglio fare quei miei 3, 4, 10 passi in avanti per dire alla Chiesa e per dire a Dio e per dire anche a Satana che io appartengo a colui che è l'autore dell'amore vero e che io voglio vivere in questo amore, in questo vincolo di amore perfetto, e voglio perseguire con ogni forza la mia vita in santità con Lui. Se tu sei questa persona, mentre cantiamo un brano di adorazione, voglio invitarti a venire avanti e voglio pregare anche per voi.